Euroreportage. Europa Italia. Come paghiamo il prezzo di una scuola rimasta indietro? Di Claudia Vanni. Questa proprio non la so. Ma se non risponde nemmeno a queste domande? Per piacere, mi faccia una domanda più semplice. Ma questa è una domanda semplice. Quanti anni ha lei? 33. Come mai così in ritardo? Ho fatto la guerra, ho fatto la resistenza e vi anche un dito congelato. Alberto Sordi, in Una vita difficile, si presentava ad un esame di ingegneria 12 anni dopo il termine regolare. Fortunatamente dietro i rinvii degli studenti di oggi non ci sono le stesse cause del povero Sordi nel film di Dino Risi. Fatto sta che un anno di ritardo gli studenti italiani lo pagano ancor prima di arrivare all'università. A livello internazionale prevale il quadriennio di scuole superiori. Noi, fino ad ora, abbiamo optato per i 5 anni. Dopo, nei corridoi universitari, andiamo più lenti rispetto al regolare tempo dei corsi. Un aiuto l'ha dato la riforma del 1999, che ha introdotto la separazione tra il triennio, la cosiddetta laurea breve, e l'eventuale biennio di specialistica, accelerando i tempi di ingresso nel mondo globale del lavoro. Lo spiega il professor Roberto Moscati, docente dell'Università Bicocca di Milano. È vero che ci vogliono 4 anni, 2 o 3 mesi mediamente per uscire dal triennio invece che i 3 che dice il triennio stesso, no? È vero che ci vogliono 2 anni e mezzo invece dei 2 o quasi 3 invece dei 2, dipende dalle facoltà, per uscire dalla magistrale, però tutto sommato una certa riduzione dell'età media di ingresso nel mondo del lavoro c'è stata. Cioè, di che percentuale stiamo parlando? Un ordine di grandezza sa darcelo? L'uscita sul mercato del lavoro è di circa 1 anno e mezzo in media più bassa rispetto a quello che era prima della legge dell'entrata in vigore del 3+2. Siamo sopra la media europea. Secondo il professore Moscati, che ha sull'argomento un'esperienza di studi trentennale, oltre al già citato anno in più di superiori, a pesare è anche la didattica stessa. Il nostro sistema è rimasto idealmente quello di 40 anni fa, quando c'erano 1/10 degli iscritti che ci sono adesso. I paesi europei sono andati cambiando, nel bene o nel male, insomma, sono andati evolvendo i loro sistemi e noi no. Allora cosa si fa? Si va a vedere quali sono i sistemi di successo e si dice allora facciamo come loro. Il modello fondamentale che ha avuto il più grande successo negli ultimi 15 anni è stato il modello inglese, di tipo neoliberista, che è molto legato al rapporto università-mercato del lavoro e competizione tra le università. Soltanto che noi ci siamo dimenticati del fatto che questo è possibile in Inghilterra perché le università sono nate autonome, indipendenti, nate così. Noi siamo nati come un'università creata dallo Stato. Come fanno le università italiane a essere competitive se non hanno l'autonomia che hanno le università anglosassoni? La soluzione potrebbe essere proprio allora dare autonomia alle università italiane. Certo, però quando è stata data ha fatto un pessimo risultato, cioè l'autonomia è stata data dai governi degli anni 80, Amato eccetera, è stata un'autonomia usata malissimo, si sono moltiplicate le cattedre, moltiplicate le sedi staccate, creato una serie di offerte formative apparentemente giustificate da andare incontro alle necessità territoriali degli studenti eccetera, in realtà per andare incontro alle carriere dei docenti. Noi abbiamo avuto una pessima esperienza di autonomia e poi è arrivata la Gelmini che l'ha tolta dicendo non siete stati capaci e allora peggio per voi. Ecco i 2 punti da cambiare. Migliorare il rapporto teoria-pratica, cioè si comincia a fare, no? Attraverso gli stage, i tirocini. Il secondo punto, le competenze trasversali, problem solving, capacità di lavorare in gruppo, capacità di prendere la direzione di un gruppo. Nel sistema anglosassone l'approccio è diverso, ma non è un problema risolto, sottolinea il professor Moscati, poiché anche in questo caso prevale valgono le specificità disciplinari. In Italia il cambiamento è ostacolato anche dal sistema di carriere dei docenti. Le carriere dei professori universitari sono molto legate alle discipline specifiche a cui appartengono e quindi, se un sociologo va a insegnare sociologia della scienza in una facoltà di scienze e rimane solo isolato, non farà mai carriera. Lei dice: per far carriera all'interno del mondo universitario occorre specializzarsi, così poi da poter andare avanti. Allo stesso tempo però poi... servono competenze trasversali per i laureati di moltissime aree disciplinari. La crescita qualitativa della didattica riflette benefici sull'economia, come evidenzia Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali. Un miglioramento, del 25% dei risultati, quindi passare da per esempio un voto di laurea di 75 a uno di 100 porterebbe, se venisse ovviamente per tutti per tutta la popolazione studentesca, a un aumento di circa 2 decimi della crescita del prodotto interno lordo. Ora, visto che noi appunto, come sa, stiamo discutendo se il prossimo anno la crescita sarà 0,6 o 0,7, è chiaro che 2 decimi sarebbero importanti. Un paese più investe in istruzione, in capitale umano, più è competitivo e quindi è più capace di esportare, di produrre meglio, di attrarre capitali. Volendo creare uno spazio di università europeo, aggiunge Gavosto, è importante stabilire quindi un certificato di qualità europeo. Per questo da qualche anno il nostro paese ha avviato processi di controllo, dapprima nel 2011 con l'avvio dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, e poi nel 2013 con l'AVA, il Sistema di Assicurazione di Qualità della Didattica Universitaria. Ma all'estero c'è chi si è mosso prima e meglio, come spiega il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. I primi che hanno avviato dei sistemi di valutazione efficaci sono sicuramente stata l'Inghilterra, seguita, devo dire, da un sistema molto interessante da quello dei Paesi Bassi, quello olandese, che forse in questo momento è il più avanzato. E soprattutto un aspetto che è quello delle visite condotte da esperti dell'agenzia di valutazione dentro gli atenei e all'interno dei singoli corsi di studio. Questo introduce, un elemento di giudizio esterno che è molto importante, nel senso che uno è chiaro che può cercare di fare la migliore autovalutazione possibile, però se viene aiutato da una parte terza, non direttamente coinvolta, questo non può che aiutare il processo di valutazione. Le differenze tra l'università italiana e i sistemi europei, dalla didattica alla governance, possono essere fra le cause del divario tra il tasso di occupazione nel nostro paese rispetto alla media dell'Unione. La dottoressa Marzia Foroni, consulente del Ministero dell'Istruzione, ci rivela qualche dato in merito. I diplomati nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni, quindi i giovani, hanno visto un decremento dell'occupazione, quindi i tassi di occupazione che scendono. Per l'Italia del 6%, la media europea è del 3,7%, quindi un diplomato ha trovato meno lavoro in Italia rispetto alla media europea. Sui laureati il tasso europeo è dell'1,9 e quello italiano è del 3. Il distacco quindi c'è, ma il processo di unificazione europeo anche sotto l'aspetto universitario prosegue. Abbiamo tutti sottoscritto dei principi per il riconoscimento dei titoli, per cui le università europee trattano i titoli secondo la stessa procedura, dovrebbero ovviamente, poi ci sono diversi livelli di attuazione. La mobilità internazionale in termini di Erasmus, ma anche in termini di studenti internazionali che si muovono tra i paesi europei, è raddoppiata nell'arco degli ultimi 10 anni. Qual è il prossimo obiettivo? A livello italiano, consolidare le riforme e far sì che siano attuate in tutte le università. Intendo l'introduzione di tutte quelle strutture e politiche che derivano dal processo di Bologna, quindi la divisione in 3 livelli di laurea, l'uso dei crediti formativi, l'apprendimento incentrato sullo studente anziché sul docente. A livello europeo dobbiamo, lo so che è filosofia, mi rendo conto, però avere chiaro per che cosa stiamo facendo le riforme, cioè l'occupabilità è importante, quindi rivediamo i sistemi affinché poi ci siano sbocchi occupazionali, professionali per i laureati, ma anche la dimensione di contributo allo sviluppo delle società. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.